La rosa purpurea di Franco d'Assisi. Un saluto a tutti amici, Franco d'Assisi in studio, La Rosa Purpurea, allora settimanale di cinema di Radio 24. Una puntata dedicata come sempre all'attualità cinematografica, una puntata del sabato, ve lo dico sin d'ora, diversa questa volta da quella della domenica, che sarà speciale. Infatti domani alle 15 saremo in onda in diretta dal Vinitaly di Verona per parlare di rapporti fra cinema e vino. È un rapporto interessante, il vino è stato spesso protagonista del cinema, è meglio non consumarlo prima di andare a vedere un film perché si rischia un po' l'abbiocco, però è un tema molto interessante perché è molto poetico, sono due poetiche diverse in un certo senso, e di questo cercheremo di parlare domani appunto a Vinitaly dalle 15 nella puntata speciale della domenica della Rosa Purpurea. Invece questa, come tutti i sabati, è dedicata alle novità che trovate in sala da questo fine settimana. Ancora una settimana di uscite piuttosto copiosa, noi abbiamo scelto 4 film su cui soffermarci. Analizziamoli subito e scopriamoli nei titoli di testa. Arriva nelle sale il nuovo film con Russell Crowe, The Next Three Days. La vita tranquilla di John Brennan in un istante si trasforma in un incubo con l'arresto della moglie. Per rivederla, il protagonista dovrà organizzare la sua evasione dal carcere. 3 amici, ex compagni di liceo e ora giovani professionisti, si ritrovano perseguitati da un nemico comune, i raccomandati. Decidono di riprendersi con forza quello che gli spetta, il posto di lavoro. È la storia di C'è chi dice no, divertente commedia con Paola Cortellesi e Luca Argentero. Un newyorkese a Los Angeles. È Ben Stiller, protagonista de Lo stravagante mondo di Greenberg. Un quarantenne reduce da un esaurimento nervoso che dalla grande mela si trasferisce nella città degli angeli con un solo intento: non fare nulla per un bel po'. Ma sentimenti e passato gli giocheranno un brutto scherzo. Arriva in Italia Offside, il film a metà tra commedia e documentario che racconta la storia di una ragazza arrestata per aver voluto assistere ad una partita di calcio. Il film è firmato dal leone d'oro Jafar Panahi, il regista iraniano incarcerato dal regime per aver appoggiato le manifestazioni di protesta nel suo paese. Ebbene, questi quindi erano i film di cui ci andiamo a occupare in questa puntata della Rosa Purpurea. Cominciamo subito con l'azione, cominciamo subito a ritmi serrati perché torna nelle sale italiane Russell Crowe con un film che si intitola appunto The Next Three Days. Scopriamolo insieme con la nostra Chiara Pizzimenti. Vado io. Poliziere Pittsburgh, questo è il mandato di arresto per Laura Brennan. Arresto per omicidio. Oh, trova un avvocato! Laura! Succede così all'improvviso, una mattina come tante. Suonano alla porta, è la polizia che mette le manette alla moglie del professor John Brennan. L'accusa è omicidio, un omicidio che lei dice di non aver commesso. Dimentichi le sbarre, sua moglie. Guardi le prove. Ho visto le prove, lei è innocente. Non importa cosa crediamo noi, Laura non uscirà. John Russell Crowe, che invecchia vista d'occhio nei 3 anni sullo schermo, mette in gioco tutto. Tenta la via della fuga partendo come una persona comune. Cerca su internet, vuole far evadere la moglie, Elizabeth Banks, per andare all'estero insieme al figlio. I primi rudimenti glieli dà un uomo fuggito dalla prigione, Liam Neeson. Cosa vuoi sapere? Come hai fatto a fuggire? Non c'è riuscito nessuno. Nessuna prigione ermetica. Devi avere tutto il piano già stabilito. E devi chiedere a te stesso, puoi uccidere una guardia? Lasciare tuo figlio a una stazione di servizio? Per fare questa cosa, ecco cosa devi diventare. E se non puoi, non iniziare, farai solo uccidere qualcuno. Il resto lo imparerà da sé, frequentando bassi fondi e lavorando per mesi in attesa di quei 3 giorni che serviranno per mettere in atto il piano. La polizia può isolare il centro della città in 15 minuti. Nel giro di 35 minuti possono avere sbirri a ogni casello dell'autostrada. Fermate quel treno! Reggiti. E se non riesco a fuggire? Allora arrenditi, perché ti spareranno a vista. Laura! Cosa si è disposti a fare per la persona che si ama? Fin dove ci si può spingere? Questo indaga Paul Haggis, premio Oscar per Crash, in The Next Three Days, remake allungato del francese Purel per lei del 2007. I was the one when you needed love. Senza anticipare quale sarà l'esito della fuga e senza svelare se lei è innocente o no, si può certamente però dire che è un thriller ben fatto, che mantiene alta la tensione per tutte le oltre 2 ore della durata, cita e ricorda, forse troppo però, tanto cinema, da Hitchcock al Woody Allen di Image Point, dal Fuggitivo ai Soliti Sospetti. Questo il parere del pubblico in sala. Sì, è un bel film, devo dire. Perché? Perché è molto particolare la storia e è originale comunque come è stato creato. È una storia molto originale. Fa pensare un po' alle relazioni, alla vita. Non me l'aspettavo proprio, poi fatto bene, poi gli artisti sono tutti bravissimi. È originale anche se un pochino azzardato. Grazie a Chiara Pizzimenti, allora, che ci ha raccontato questo action movie con Russell Crowe, The Next Three Days. Diamo un'occhiata a quello che accade, che è accaduto nello scorso weekend al Botteghino, perché per la prima volta durante questa stagione è servita una cifra nel weekend di incasso minore al milione di euro per piazzarsi al primo posto in classifica. E non c'è novità, perché al primo posto in classifica c'è ancora Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno con Paola Cortellesi, che tra l'altro è protagonista anche di un film di cui parleremo tra poco, che arriva in questo weekend. C'è chi dice no, sembra diventata Paola Cortellesi l'attrice irrinunciabile del cinema italiano in questo momento. È davvero una stagione super felice per lei fra TV e cinema. Ma dicevamo, Nessuno mi può giudicare, con 668.000 euro raccolti nel weekend, ha portato il suo incasso globale a 6.5 milioni e comincia a essere una cifra importante. Sicuramente, probabilmente, non arriverà ai 10 milioni, che sono poi come la cifra che fa parlare di successo conclamato, ma insomma è un grosso successo sicuramente anche quest'altra commedia italiana nella stagione d'oro della commedia italiana. Solo 478.000 euro e secondo posto per Mia moglie per finta con Adam Sandler e Jennifer Aniston, terzo posto con 450.000 euro per il cartoon Hope, quarto posto e partenza un po' tiepidina dobbiamo dire per Boris, il film che è lo spin-off cinematografico di una fortunata serie TV tutta italiana di cui abbiamo diffusamente parlato la settimana scorsa. Voglio anche darvi il dato quasi ormai finale, giusto per dire che forse non ne valeva la pena alla fine, di Amici miei come tutto ebbe inizio, che ha raccolto 116.000 euro nel weekend e si è portato a 3.2 milioni. Questo è praticamente il bottino pressoché conclusivo di questo film, che possiamo definire tranquillamente un flop. Ed eccoci ancora insieme alla Rosa Purpura, la seconda parte della nostra trasmissione si apre sulle note della colonna sonora di C'è chi dice no di Giambattista Avellino, film italiano che arriva in questo fine settimana nelle sale con un cast importante che può far pensare a un impatto sul box office di un certo tipo. Luca Argentero, Paola Cortellesi, Paolo Ruffini, ma anche Giorgio Albertazzi, Roberto Citran in altri ruoli. Insomma, una bella commedia italiana ancora, che racconta un altro aspetto che non va del nostro paese, quello delle raccomandazioni. Ma Cardi che non è venuto? Cardi sta mandando avanti la grande azienda di famiglia. Grande. Bravi. Bravi. Avete fatto delle splendide carriere. Io invece sono fallito. Sapete perché? Perché ho la strada chiusa da tanti figli di papà come voi. Per questo vi dico col cuore una cosa e penso da 20 anni. Andate tutti a fanculo! E questa è la dedica di Max. Si sono ritrovati un bel po' di compagni, ex compagni di scuola, qualche anno dopo, una cena, e chi vanta appunto l'azienda di famiglia da una parte, chi aveva fatto successo dall'altra, eccetera eccetera, ma come avete sentito la discriminante è che questi sono un po' tutti figli di papà o comunque raccomandati, gente insomma che si è fatta strada non solo, diciamo così, sulle proprie forze, e questo frustra molto Max, Irma e Samuele. Max, appunto, Luca Argentero, giornalista di un certo talento che scrive in un quotidiano locale, ma che per arrotondare è costretto a scrivere sulle più improbabili riviste di settore, anche perché vicino a tanto così dalla sua agognata assunzione è stato scalzato dalla figlia di un famoso scrittore. Che cos'è quella faccia? La tua assunzione saltava. Che cazzo dici? Il direttore ha dovuto aiutare un collega, ha assunto la figlia. Oh! Sono 3 anni mi passano davanti, figli di ieri. E allora questo era appunto Luca Argentero. C'è poi Samuele Paolo Ruffini, l'attore che lo interpreta, una specie di genio del diritto penale, un penalista in erba ma di grandi potenzialità, che passa anni a fare da assistente a un barone universitario, e quando è vicino così al concorso, alla vittoria nel concorso per fare anche lui il ricercatore, il posto questa volta gli verrà soffiato dal genero davvero inconcludente del barone. Ti volevo parlare, Pazzoni. Il concorso è andato male. È arrivato un candidato più meritevole di te. Ma da quando in qua vince il merito, scusi? Ma poi chi c'è più meritevole di me? De Fornaris ha scelto Pino Conca. Ma chi è Pino Conca? Il marito della figlia. E poi Irma, Paola Cortellesi, che pur essendo uno dei dottori più stimati del proprio ospedale, a un passo dal contratto viene scartata per preferire la nuova fidanzata molto procace del primario. Io sono un medico! Vorrei un incarico precario, mal pagato, ma da medico! Non la borsa di studio degli amici del Rene, cazzo! Mica mi raccomandata, a me! Lui che è entrato col calcio in culo di babbo primario, ma vaffanculo, vai! E insomma, 10 anni di studio, di fatica, di sacrifici, di precariato non possono essere buttati via così perché qualcuno ha un santo in paradiso più grosso del tuo, anzi tu non ce l'hai proprio. E allora bisogna vendicarsi, la vendetta è il sentimento che prevale e bisogna prendere di mira ciascuno il raccomandato di un altro, proprio per non farsi scoprire con scherzi e con diciamo idee che sono al limite della legalità, anzi spesso la superano anche, ma che insomma danno davvero una grossa soddisfazione. Inizialmente il piano sembra addirittura funzionare, questo galvanizza i protagonisti fino a quando qualcuno non riesce a ottenere quello che voleva, ovvero il proprio posto, e lì le cose cambiano perché l'animo umano è fatto così. Però loro vanno avanti, si inventano una sigla, i Pirati del Merito, e questa sigla li porterà lontano, fino dietro le sbarre, perché intanto l'Italia non cambia mai. Siamo i Pirati del Merito. Noi diciamo no al regime della raccomandazione, alle bugie, hai merito calpestato ogni giorno. Diventiamo tutti pirati, scambiatevi gli stronzi e colpiteli, disturbateli, molestateli, sputtanateli. D'ora in poi nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nei giornali, chi ruba il merito deve avere paura. Noi diciamo che il furto di merito è furto di vita. Non ti rubano solo il lavoro, ti rubano sogni, figli, dignità, tutto. Dirige Giambattista Avellino un film sincero, anche se imperfetto, soprattutto nella prima parte ci mette un po' a carburare con qualche banalità di troppo, ma poi trova il suo ritmo, trova anche il pathos da parte del pubblico e diventa un film molto interessante, e interessante anche il punto di vista, perché per la prima volta forse nel cinema italiano degli ultimi 10 anni, che ha raccontato molto la precarietà, ma spesso sotto gli occhi, con gli occhi dei ragazzi che lavorano nei call center, insomma di una marginalità che costituisce il nuovo proletariato italiano, stavolta si sofferma su un altro livello, quello dei professionisti, di quelle menti che poi fuggono dall'Italia proprio perché l'Italia è un paese tappato dove, estremizzando il concetto ovviamente, questo film dice non si riesce mai ad avere giustizia. E allora proprio su questo punto noi abbiamo voluto sentire il parere del regista Giambattista Avellino. Se le persone fanno bene il loro lavoro, realizzano i propri sogni, si impegnano in quello che fanno, è tutta una società che ne risente positivamente. Un dottore che ha studiato con passione e è stato riconosciuto ti curerà meglio, o un professore che ha potuto fare il suo percorso di formazione con dignità e con soddisfazione ti trasmetterà un sapere migliore, e così per un giornalista, eccetera. E quindi è questa dimensione qua che non è un lusso. Poter fare bene il proprio lavoro e il proprio lavoro che è importante per gli altri, insomma. Ecco, in questo senso abbiamo preso questo punto di vista. Questo era Giambattista Avellino. Andiamo a sentire invece adesso i protagonisti principali di questo film, Luca Argentero e Paola Cortellesi. Il regime della raccomandazione, o l'idea di pensare che il sistema funzioni così, non deve diventare sintomo di o motivo di pigrizia. Non rassegnarsi all'idea, vabbè, tanto funziona così, vabbè, tanto c'è la raccomandazione, allora meglio che me ne vada da un'altra parte. Proprio il tuo personaggio una tentazioncina ce l'ha quando arriva a ottenere quello che merita. È proprio quello il problema, perché poi chi è che in coscienza, oggi pensandoci, chi è che di fronte alla possibilità di realizzare il proprio sogno è disposto a dire per coerenza e per coscienza no? C'è chi dice sì, c'è chi dice no. la consolazione è che a volte quel no può farti veramente star molto bene, può farti perdere molte cose, ma dentro ti può dare una soddisfazione veramente incredibile. Non sono mai stata l'attrice desiderata, per anni e anni non sono mai, non mi hanno proprio per niente desiderato, anzi posso dire sicuramente il contrario. Ho partecipato al film di Brizzi, che era una commedia molto divertente, il film di Massimiliano Bruno, con grande sorpresa, che a nessuno mi può giudicare, di cui sono protagonista insieme a Raul Bova e Rocco Papaleo. È un film che viene da un sodalizio lavorativo che dura da 15 anni con Massimiliano Bruno, che è mio principale autore, ma mio compagno di scena come attore, eccetera, eccetera. Siamo partiti con un film piccolissimo, poi il pubblico ne ha decretato il successo. Questo weekend puoi fare primo e secondo. Ma io me lo auguro, perché almeno vuol dire che c'è chi dice no, ha avuto una buona partenza e sta andando bene, perché è un bel film e l'argomento è molto attuale, ahimè, e quindi ce l'auguriamo assolutamente. Le voci dei protagonisti di C'è chi dice no, la principale uscita italiana di questo fine settimana. È arrivato il momento del nostro DVD game, di indovinare e provare a vincere il capolavoro in Blu-ray di questa settimana. Ascoltiamo la prima traccia. 28, 13, 27, 14, 25, 26, 28, 13, 29, 13, 28, 28. La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete già indovinato di che film si tratta, per provare a vincere, per i più bravi e veloci di questa puntata, il Blu-ray di questo film. Più tardi ci saranno altre due possibilità. Le note decisamente West Coast della colonna sonora dello stravagante mondo di Greenberg, in originale semplicemente Greenberg, che è il cognome del protagonista maschile di questo film, che è Ben Stiller. Una commedia indipendente americana che arriva dallo sceneggiatore e regista Noah Baumbach, che era già stato candidato all'Oscar per un film, lo ricorderete forse, Il calamaro e la balena. Era stato un film che aveva avuto un discreto successo soprattutto di critica, che ci racconta la storia di due anime alla deriva nella Los Angeles di oggi. La prima è quella di Florence, interpretata da Greta Gerwig, aspirante cantante che però lavora come assistente tuttofare alla famiglia Greenberg, appunto, finisce ogni giorno ad occuparsi semplicemente delle cose, dei problemi, dei bisogni degli altri. I Greenberg sono una famiglia che vive una vita brillante nelle colline di Hollywood, insomma, una famiglia benestante che a un certo punto viaggia per l'Europa, parte per l'Europa col figlioletto e lascia a Florence la cura della casa e del cane Mahler. Allora, da New York arriverà proprio in quel momento a dare una mano, diciamo così, l'altro Greenberg, appunto Ben Stiller, ovvero Roger, che è reduce da un esaurimento nervoso, è appunto un classico newyorkese, intelligente, spiritoso, pungente, anche un po' sarcastico, che dopo una breve carriera da musicista ha lavorato per un certo periodo come falegname. Ora dice: non voglio fare assolutamente niente per un bel po', per un bel periodo, e passa tutto il suo tempo a scrivere lettere di protesta. Cara American Airlines, non è mio costume scrivere lettere di reclamo. Sono sopravvissuto alle vostre distanze tra una fila e l'altra, ma il mio problema non è il poco spazio per le gambe, è il funzionamento dei pulsanti sui sedili. Se premo il pulsante per reclinare la poltrona, mi aspetto che la poltrona si reclini o che si muova. La cosa non è accaduta con la poltrona 26C sul volo 41 New York Los Angeles. E così appunto Roger Greenberg passa il tempo anche cercando di riallacciare i rapporti a Los Angeles con suoi vecchi amici, perché lui era originario di lì prima di andare a New York in giovane età. Il suo vecchio amico, ex membro della band Ivan, la sua vecchia fiamma Beth, che è Jennifer Jason Leigh tra l'altro, ma sia Ivan che Beth sono andati avanti con la propria vita, hanno fatto coppie, hanno fatto figli, insomma non sono più fermi al punto in cui si è fermata invece la vita di Greenberg. E allora per Roger non resta che l'unica via, quella di dare un posto ai suoi sentimenti nell'unica casa in grado di ospitarli, ovvero quella di un'altra ragazza un po' bizzarra, appunto come Florence. Scusami, è solo che io sono uscita da poco da una storia molto lunga e non mi va di passare da fare solo sesso a fare solo sesso a fare solo sesso. Chi è il terzo a fare solo sesso? Sei tu, se l'avessimo fatto. Un film un po' cerebrale come Magnolia, un po' scanzonato come alcuni film di Gondry, un film veramente indie, ma con un Ben Stiller davvero ottimo, davvero un grande ruolo questo di Greenberg per lui, perché fuori dall'impegno da star, da commedia, Ben Stiller mostra in questo film sfaccettature e dimensioni della sua recitazione che spesso in quei film un po' più mainstream non riesce a tirar fuori. Un film che potrebbe andare avanti altre due ore, perché sono istantanee di vite, se volete un po' marginali, vite di due bizzarri, e l'America, si sa, non è un paese per stravaganti. Ed eccoci ancora insieme, Rosa Purpurea, terza parte, e un altro film che ci aspetta fra le novità in sala. Qui chiaramente siamo di fronte a un film che ha un'importanza che va oltre la sua bellezza, la sua grande capacità di commuovere e di colpire a livello artistico, perché stiamo parlando di un film di un regista che è in galera, Jafar Panahi, sicuramente ne avrete sentito parlare, è un grande regista iraniano. Nel 1997 ha vinto il Pardo d'Oro a Locarno con Lo Specchio, nel 2000 si è ripetuto a Venezia con Il Leone d'Oro per Il Cerchio, un film sulla condizione femminile in Iran, nel 2003 a Cannes premio speciale della giuria per Oro Rosso. Insomma, è uno che ogni film che fa è un colpo a bersaglio. Jafar Panahi nel 2006, ormai sono passati tanti anni, venne premiato con l'Orso d'Argento a Berlino per un film che si intitolava Offside. Quel film finalmente arriva nelle sale cinematografiche italiane. Allo Stadio Nazionale di Teheran si gioca una partita speciale. La nazionale iraniana affronta il Bahrain, in palio un posto per i mondiali di Germania 2006. L'atmosfera è carica, torpedoni di tifosi arrivano nella capitale da tutte le città del paese, con i loro inni e le magliette dei campioni delle squadre più acclamate d'Europa, molte delle quali tra l'altro italiane, mischiate alle bandiere bianche, rosse e verdi, guarda un po' come le nostre, dell'Iran. Ma in uno di questi pullman c'è una presenza anomala. Sotto le spoglie di un tifoso maschio, celata dai fregi tricolori sul volto, una ragazza marcia verso lo stadio, cercando di non dare nell'occhio. Sì, perché in Iran le donne allo stadio non ci possono andare. È roba da uomini, lo dice la legge. Tutti cercano di dissuaderla, ti caccerai nei guai, ma lei ci prova. E arrivata all'entrata dello stadio, prova a mischiarsi nella folla, ma viene riconosciuta da un soldato e portata nel posto di polizia dello stadio. La camminata e il discorso a due fra il soldato e la ragazza, esponenti di un Iran giovane che non vorrebbe essere diviso da leggi arcaiche e assurde, è d'antologia. Lì, in un recinto improvvisato, giungono alla spicciolata altre ragazze che, come lei, hanno tentato di infrangere questa legge, questo divieto, hanno tentato di andare a vedere cosa succede dentro lo stadio, com'è l'emozione di vedere una partita da dentro. Anche loro però devono rimanere lì, a sentire i boati che arrivano da dentro lo stadio, a sentirli, percepirli solamente con le loro orecchie e a non vedere nulla. Qualcuna cercherà di scappare, qualcuna ci riuscirà. Il film si sviluppa proprio in questo rapporto, con questo recinto che è niente più di una staccionata. Dentro le ragazze, fuori i soldati, due facce di una medaglia che quella di un Iran di giovani, appunto, che dovrebbe venire fuori diversamente da così. Grandi potenzialità per questo paese, grande cultura, grande tradizione, ma purtroppo questa vessazione continua che Jafar Panahi racconta e condanna. Jafar Panahi usa il calcio nel suo film, davvero bellissimo, tra l'altro dura 1 ora e 27, quasi come una partita di calcio, poco meno, tutto quello che si svolge dentro è quasi in tempo reale. Dicevo, Jafar Panahi usa il calcio come pretesto per raccontare le privazioni dei diritti delle donne nell'Iran moderno. Sentiamolo. Il calcio è una scusa per parlare delle restrizioni. Tutti i miei film sono sulle restrizioni. Restrizioni fatte da alcuni su altre persone per negare i diritti basilari. Il calcio mi è servito come scusa per mostrare le restrizioni in una società in cui ogni diritto base degli esseri umani è cancellato. Quanto alla nascita dell'idea, Jafar Panahi la racconta così. Quattro o cinque anni fa mi trovavo sulla strada per lo stadio e mia figlia mi ha chiesto di portarla dentro, ma io gli ho risposto che a lei non era permesso entrare. Lei ha continuato a dirmi che voleva vedere cosa stava succedendo nello stadio e io le ho detto che sarebbe stato impossibile per lei vedere quella partita. Mia figlia ha continuato a dirmi di portarla lì e che se non l'avessi fatta entrare saremmo ritornati indietro. Era così insistente che alla fine l'ho portata. Io sono stato insistente con le guardie dicendo che mia figlia aveva 10 anni, che la dovevano far entrare, ma loro non l'hanno fatto. Ho provato a supplicare, ma niente. Mia figlia allora mi ha detto che io almeno sarei dovuto entrare e di non preoccuparmi perché lei avrebbe avuto cura di se stessa. Alla fine io sono entrato nello stadio e dopo 10 minuti l'ho vista arrivare. Allora le ho chiesto, ma come hai fatto? Lei mi ha risposto, c'è sempre una via. Da lì mi è venuta l'idea per fare un film su come una ragazza possa entrare allo stadio e alla fine l'idea si è formata. Le reazioni in Iran quali sono state? Beh, il film, come potete immaginare, ha avuto tante difficoltà. Tra l'altro, lì è cominciata un po', diciamo così, proprio il testa a testa fra Jafar Panahi e le autorità iraniane. Jafar Panahi non è mai stato un regista vicino o apprezzato dal regime, però negli anni a metà della prima decade dei 2000 l'Iran sotto Khatami aveva avuto una posizione più morbida, diversa verso gli intellettuali. Poi l'arrivo di Ahmadinejad ha cambiato le cose, c'è stato un giro di vite e il 2 marzo del 2010 Jafar Panahi è stato arrestato per la partecipazione ai movimenti di protesta contro il regime iraniano. La condanna è arrivata nel dicembre scorso, pensate, 6 anni di reclusione per reati di opinione e soprattutto direi, perché per un regista forse addirittura più grave, gli è stata preclusa la possibilità di dirigere, scrivere e produrre film sia all'estero che all'interno dell'Iran per 20 anni. È una condanna totalmente disumana al di là di ogni logica, ammesso che ci sia una logica dietro un atteggiamento di questo tipo. Sono molte le petizioni anche online per chiedere la liberazione di Jafar Panahi, basta andare su internet e cercarle e poter partecipare. Si è mosso molto anche tutto il cinema italiano per Jafar Panahi. Ricorderete anche a livello europeo le lacrime di Juliette Binoche quando la sede di Panahi era rimasta vuota. Insomma, c'è un grande sentimento attorno a questo grande artista che ci regala questo film che arriva 5 anni dopo in Italia ed è importante che lo vediamo perché è davvero un piccolo capolavoro, però ci racconta così quali sono state invece le reazioni in patria. Dopo Offside possiamo vedere gli effetti. Alcune donne che non avevano mai scritto hanno firmato una lettera alla FIFA con 114.000 firme e una delle quali è mia. La questione è ancora aperta. Durante la partita Iran-Costa Rica, alcune donne sono riuscite ad entrare allo stadio con le sciarpe e avevano un cartello con scritto «Noi non vogliamo essere in offside». Ho usato questo titolo per il film proprio per indicare che il problema non è ancora risolto. Queste donne sono soprannominate in Iran come «ragazze con la sciarpa bianca». È iniziato qualcosa e dobbiamo insistere su questa strada. Loro vorrebbero andare allo stadio e fino a che loro non saranno ammesse, porteranno con sé una piccola TV per vedere la partita per mostrare la loro opposizione. E allora Jafar Panahi, la sua voce qui alla Rosa Purpurea, assolutamente a sostegno della causa di questo regista incarcerato in Iran. Andiamo a giocare ancora con il nostro game, come sempre, fra il serio e il faceto, come deve essere la vita e il cinema. Nella nostra trasmissione sentiamo la seconda traccia del game di oggi. Chi è tutta questa gente? Poveri! E cosa fa qui? Non so, può essere mandato via quando si vuole. Crede? Facile, se fate i piedi scappano via tutti quanti. La Rosa Purpurea @radio24.it. Più tardi ci sarà l'ultima possibilità per vincere il Blu-ray di questo film. Oh, bene, allora abbiamo giocato, abbiamo chiuso la parentesi delle uscite, cioè parentesi, più di mezza trasmissione sulle uscite, le novità di questa settimana. C'è uno spazio adesso però per parlare di un festival che comincia proprio nella prossima settimana, esattamente il 12 di aprile, andrà avanti fino al 16 a Lecce ed è un festival che negli anni si è guadagnato un suo spazio. Stiamo parlando del Festival del Cinema Europeo di Lecce, giunto ormai alla 12ª edizione. Per presentarlo, per parlarne, siamo in collegamento con uno dei due direttori, Alberto La Monica, che saluto. Ciao Alberto. Ciao Franco e ciao a tutti voi. Allora Alberto, dicevamo, ormai è diventata una tradizione consolidata, quest'anno Festival del Cinema Europeo di Lecce con alcuni argomenti, oltre al concorso ovviamente, che ci darà un taglio su quella che è la cinematografia europea, un cinema europeo che, lo sappiamo, fa sempre più fatica anche a trovare spazi in Europa, pensate un pochino, neanche in casa propria, in casa nostra, siamo profeti, diventa un po' problematico. Il cinema europeo è stato quello forse un po' più stritolato anche dalla distribuzione, dal nuovo concetto di distribuzione. Allora questi festival diventano fondamentali per vedere cosa si muove nel cinema in nazioni nobili come Spagna, Francia, Germania, Olanda e altre ancora. Ma dicevo, ci sono anche omaggi importanti, penso a Tony Servillo, penso a Emilio Greco. Allora raccontaci un po' cosa vale la pena non perdere del Festival del Cinema Europeo di Lecce di quest'anno. Allora, innanzitutto, legandoci al discorso del cinema europeo, quest'anno appunto rendiamo omaggio a Paolo Branco, che farà anche il presidente della giuria, e quindi si avrà la possibilità di vedere in anteprima uno degli ultimi film da lui prodotti, che si chiama I Misteri di Lisbona, l'ultimo lavoro di Raul Ruiz. Paolo Branco lo definisce il suo vero capolavoro, è un film in costume che dura 4 ore e mezza, veramente splendido. E oltre anche ad alcuni dei suoi grandi film prodotti da lui, di Wim Wenders, di Manuel de Oliveira, di Téchiné e ancora. E poi, come hai detto tu, per noi è Tony Servillo quest'anno il protagonista del cinema italiano, quindi la retrospettiva completa dei suoi film. Ci sarà anche una mostra di fotografie che racconta un po' tutta la sua carriera cinematografica, ma anche teatrale. E poi presenteremo la pubblicazione che ogni anno il festival produce, no? Dedicandola all'attore, e una monografia che sarà curata da Enrico Magrelli. E di Emilio Greco presentiamo la retrospettiva completa dei suoi film. Forse non tutti sanno che Emilio è pugliese, è nato in provincia di Taranto, quindi gli rendiamo un giusto e doveroso omaggio sino al suo ultimo film, Notizie dagli scavi, e sarà presente anche Giuseppe Battiston alla proiezione del film. Un regista che ci aveva regalato una vera perla come Una storia semplice più di una decina d'anni fa, ormai vado assolutamente a memoria, anzi siamo quasi a 20 anni fa, e che adesso appunto è tornato con Notizie dagli scavi, Emilio Greco. Insomma, programma davvero ricco, grazie Alberto La Monica. Festival del Cinema Europeo a Lecce, e insomma a Lecce in questo periodo fa anche piuttosto caldo, e c'è anche la possibilità di andarsi a fare una bella passeggiata nel vicino e bel mare, anzi due mari, uno da una parte e uno dall'altra, lo Ionio e l'Adriatico. Grazie Alberto La Monica. Festival del Cinema Europeo di Lecce, c'è un'altra iniziativa di cui voglio telegraficamente parlarvi. A Pordenone, tra il 13 e il 17 aprile invece, arriva Le Voci dell'Inchiesta, il festival del cinema d'inchiesta, ma non solo del cinema, il festival dell'inchiesta a tutto tondo, anche quella teatrale, radiofonica, televisiva, sulla carta stampata, ma il côté cinematografico è assicurato dall'attenzione su Pierpaolo Pasolini, perché il tema di quest'anno è il petrolio, quindi, come dire, Pasolini è qualcosa di importante ha fatto su questo tema. E quindi dal 13 al 17 aprile a Pordenone il festival Le Voci dell'Inchiesta. Oggi con gli amici di Film TV siamo andati a dare un'occhiata ai palinsesti della prossima settimana e ci siamo accorti che c'è molto, moltissimo di un grande regista italiano come Marco Ferreri. E allora di questo vogliamo occuparci con Sara Sagrati di Film TV. Ciao Sara! Ciao Franco, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Questa settimana Film TV, al posto che fare le solite due segnalazioni di titoli, vi vuole segnalare un autore che è Marco Ferreri, a cui Rai Movie dedicherà tutte le sue nottate a partire da lunedì 11 fino a sabato 16 e addirittura con una reprise la settimana successiva. Chi era Marco Ferreri? Un grandissimo autore, cineasta, uomo intellettuale che purtroppo, come spesso accade in Italia, sebbene molto amato dalla critica e dagli addetti ai lavori e anche amato molto dal pubblico, viene poco celebrato, quindi questa è un'occasione assolutamente speciale per ricordarci il suo humor grottesco, la sua feroce satira nei confronti del machismo e dell'uomo, del maschio, anzi ciao maschio direi, e la sua appunto critica feroce nei confronti di un consumismo e di una società che lui aveva già immaginato come sarebbe diventata. Tra i film che Rai Movie sceglie di farci vedere, segnaliamo soprattutto Dillinger è morto, mercoledì 13 alle 2:20 di notte, di cui tra l'altro Film TV questa settimana regala locandina e ne approfittiamo per farci un po' di pubblicità, in cui cosa succede? Michel Piccoli una sera torna a casa, trova una pistola proprio nella sua cucina e inizia ad andare un po' incontro al suo destino in qualche modo grazie a questo oggetto, la olea, la dipinge, ci fa quasi all'amore e in tutto in una notte all'interno della sua casa appunto andrà incontro al suo destino. E addirittura più interessante per certi versi la seconda proposta, il secondo focus su Ferreri che vogliamo analizzare, Sara. Più interessante perché meno visto in TV, veramente capita di rado, giovedì 14 alle 3:05 è Il seme dell'uomo, un post-apocalittico in cui Ferreri appunto immagina una sorta di fine del mondo che non capiamo bene da che cosa derivi, che lascia questa giovane coppia, Cino e Dora, ad affrontare una nuova vita, un nuovo mondo, una famiglia, un futuro diverso. Interessante come Ferreri sfrutta la situazione per criticare la società dei consumi, vedrete l'uso delle marche di prodotti è veramente interessante, e come i generi, quindi maschile e femminile, affrontano in maniera completamente diversa la situazione. Un film appunto dal venato humor grottesco e assolutamente profetico. Allora, grazie a Sara Sagrati, agli amici di Film TV, appuntamento alla prossima settimana. Grazie Franco e alla prossima settimana a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Ebbene, queste erano le nostre segnalazioni per puntare i videoregistratori, visto che si tratta di notti con Rai Movie, con il grande cinema di Marco Ferreri. Terza e conclusiva traccia del Blu-ray Game di oggi, sentiamo. Grazie tante. Ma prego, lei è stato molto gentile. Io non ho parole per ringraziarla. Ma che le dice manco per lì. La Rosa Purpurea @radio24.it se avete indovinato di che film si tratta. Io oggi sono molto esigente perché davvero dal pubblico della Rosa Purpurea mi aspetto grandi cose su questo grande capolavoro. Andiamo invece a sentire che cosa era successo settimana scorsa perché il film era un po' più difficile. Sentiamo. Il fratello di Zahara lavorava con 500 scienziati nucleari alla centrale di Safa. Nel 91 la centrale fu rasa al suolo dai B-52. Hussein Kamel tenne insieme gli scienziati minacciando di ucciderli se fossero andati via. Le sanzioni però misero in ginocchio l'economia. Eppure c'è stato chi ha indovinato sia il sabato che la domenica, bravi, bene così. Carlo Caserta di Sesto San Giovanni e Gabriele di Rio Sariceto, Gabriele che non ha ancora un cognome, ce lo scriva così almeno sapremo anche dove spedirgli il film di Rio Sariceto, dicevo provincia di Reggio Emilia, perché il film era Fair Game, un bel thrillerone di quelli che ti tengono incollato allo schermo, in questo caso al teleschermo, perché di uscita in un video trattasi, di cui ci parla il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, il film Fair Game, Caccia alla spia, è ispirato a una storia vera. Questo film di Doug Liman è proposto in una bella edizione DVD da Eagle Pictures, notevole la qualità video, c'è questa doppia traccia audio Dolby Digital multicanale italiano e inglese. Come extra segnalo sicuramente le interviste e il commento audio dei veri coniugi Wilson a cui il film si ispira, ma c'è anche un dietro le quinte. Ricordo tra l'altro che per Fair Game Caccia alla spia è disponibile anche l'edizione Blu-ray. Bene, allora andiamo al prossimo film, alla prossima segnalazione. 1985, Steven Spielberg firma un capolavoro che rilancia la questione della segregazione razziale, dello schiavismo negli Stati Uniti, si intitola Il colore viola. Non so stare senza parlarti. Possiamo scriverci. Tu sai leggere? No, leggere no. Allora io andrò a scuola per tutte e due. Sì, impareremo tanto prima che lui ci divida. Sì. Storia di razzismo e schiavismo nei bui anni 20 dello Stato americano della Georgia, più gretta e nera. Due sorelle di colore divise tra uomini brutali che praticano una quotidiana violenza fisica e psicologica riusciranno a ribellarsi pagando per questo il prezzo di una lunga ed estenuante separazione. Emotivamente coinvolgente, girato nell'85 con classe da uno Steven Spielberg che smussò gli angoli dei passaggi più forti rispetto all'omonimo romanzo di Alice Walker. Ricevette 10 candidature agli Oscar, ma non ne vinse nemmeno una. L'uscita da parte di Warner dopo il DVD arriva il Blu-ray in alta definizione con un notevole salto di qualità per le immagini, cioè il formato dell'immagine prossimo all'originale, cioè identica alla traccia Dolby Digital due canali in italiano, sicuramente superiore alla DTS ad altre soluzioni inglese. Ci sono alcuni approfondimenti sulla lavorazione, tra cui segnalo un capitolo molto interessante sulla selezione degli attori. È stato uno dei film più acclamati della scorsa stagione cinematografica, un vero e proprio apologo di pace ambientato in un monastero in Algeria. Si tratta di Uomini di Dio. Il vostro monastero deve avere una protezione militare. Credo che non sia auspicabile, no. Ma come può dire una cosa simile? Siete a soli 20 chilometri dai morti di ieri. Le atrocità ricominceranno. Credo che la proposta del prefetto meriti una riflessione. E poi le famiglie che abitano qui, pensate alle conseguenze. La mia decisione è presa. Rifiuto. Dramma toccante, storia liberamente ispirata alla tragedia di Tibrin del 96, in cui 7 monaci francesi di un monastero algerino in cima alle montagne del Maghreb furono rapiti da un gruppo del GIA, il gruppo islamico armato, e poi assassinati. Il film ne ripercorre con profondità d'animo gli ultimi mesi di vita. Gran premio della giuria al Festival di Cannes, candidato all'Oscar per il film straniero per la Francia. L'edizione DVD, ma soprattutto Blu-ray di Lucky Red, sono entrambi notevoli. Quella in alta definizione restituisce sicuramente a pieno la ruvida fotografia originale. Abbiamo una doppia traccia italiano e francese, Dolby Digital multicanale, ma c'è addirittura una DTS ad alta risoluzione in italiano, sempre per il Blu-ray. Come extra abbiamo solo il trailer. Grazie a Claudio Poffi, allora appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a presto. E allora noi abbiamo finito la nostra corsa, la nostra ora di cinema qui su Radio 24. L'appuntamento va la prossima settimana, anzi prima, a domani alle 15 in diretta dal Vinitaly di Verona a parlare di cinema e vino. E poi alla prossima settimana, alla prossima puntata, vi dico solo un titolo su tutti, Habemus Papam di Nanni Moretti. Ci sarà da divertirsi.